si chiama proprio Dinner, la nostra installazione, e racconta una cena fissata in un istante, come se fosse una fotografia, dove oltre a vedere gli elementi che ci sono sulla tavola, in questo caso le ceramiche, vengono raccontate dalle grafiche, e quindi riesci a vedere i profumi, a sentire i suoni che sono scritti appesi a questi fili, ed è come se fosse una fotografia in cui chi la guarda riesce a sentire anche visivamente gli odori, in modo che gli oggetti non siano fissati su un tavolo con una luce molto fredda, ma così fanno parte della tavola e quindi anche delle persone che le usano e le vivono. Comprensivo il tutto anche di questo grande lampadario che attira, devo dire, la mia attenzione. Di cosa è fatto? Da dove nasce l'idea? L'idea nasce da una campana a vento e richiama un po' un alveare composto da questi piatti esagonali di porcellana, esatto, molto sottili, che fanno trasparire la luce. I piatti sono attaccati con un magnete e quindi tu, seduto a tavola, riesci a prendere i piatti e a passarli ai tuoi amici, e quindi questa situazione di convivialità che si crea intorno alla tavola viene ancora maggiormente amplificata dal fatto di poter prendere i piatti direttamente sul tavolo. Esatto.